Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Questa pioggia e questo vento, ma chi busse sto convento? Beh, Radio Zanardi che subito comincia con Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Haiti, un altro giornalista ferito durante le manifestazioni. Arabia Saudita ha nominato un nuovo principe ereditario. Iraq, esplodono proteste antigovernative in tutto il paese. Turchia, no alle sigarette elettroniche. Tunisia, la commissione elettorale vuole che il candidato detenuto parli. Mediterraneo, più di 1000 migranti morti. E Turkmenistan, il presidente licenzia e umilia in diretta televisiva il ministro degli interni. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo con Cuba. Niente visto per il ministro della salute che doveva partecipare a un incontro della Pan American Health Organization a Washington. Cuba ha accusato gli Stati Uniti di aver violato i suoi obblighi come ospite di un'organizzazione internazionale. Haiti, un giornalista è stato ferito da colpi di arma da fuoco quando la polizia ha sparato per disperdere i manifestanti, ha raccontato l'emittente haitiana Radio Sans Fin, dove lavora Edmond Joseph Agnoir, colpito al polso mentre copriva le proteste antipresidente nella capitale. Agnoir è stato portato in ospedale in moto, dove è stato medicato, il secondo giornalista ferito in una settimana. Stati Uniti, New York Times ha rivelato, citando una decina di funzionari americani, che privatamente Trump ha parlato spesso di fortificare il muro al confine col Messico con una trincea d'acqua piena di serpenti e coccodrilli, sollecitando i collaboratori a sistemare i costi, e dopo ha suggerito pubblicamente ai soldati di sparare ai migranti se tiravano pietre, prosegue il giornale. Il presidente poi ci ha ripensato quando gli è stato spiegato che è illegale, ma poi in un incontro ha suggerito di sparare loro alle gambe. Il candidato democratico alla presidenza Bernie Sanders, 78 anni, è stato ricoverato in ospedale con un problema al torace e l'ostruzione di un'arteria e ha dovuto cancellare tutti gli eventi della campagna elettorale del 2020 fino a prossimo avviso. I primi tre candidati per la nomina presidenziale democratica, che include Sanders, sono 70enni, l'ex vicepresidente Joe Biden a 76 anni e la senatrice Elizabeth Warren del Massachusetts a 70 anni. La questione dell'età è emersa varie volte ed è stata al centro di controversie dopo che l'ex segretario dell'HUD Julian Castro ha criticato Biden sul fatto che avesse dimenticato quello che aveva detto qualche momento prima durante l'ultimo dibattito presidenziale. Stai ascoltando Radio Bullets. La coalizione saudita ha negato che truppe yemenite siano state catturate. Colonnello Malki ha aggiunto che nelle ultime settimane sono stati uccisi 1500 Houthi. Gli Houthi avevano annunciato sabato che circa 500 soldati erano stati uccisi e migliaia erano stati catturati. La dichiarazione di Malki, portavoce della coalizione saudita, ha suggerito che nessun combattimento nella regione di confine ha avuto luogo. Nonostante gli Houthi mostrano i video dell'operazione, Malki ha suggerito, anziché aver sostenuto perdite, i sauditi hanno ucciso 1500 ribelli Houthi nelle ultime settimane. Non ha spiegato come né quando è accaduto, anche se nel nord dello Yemen sono in corso pesanti attacchi aerei sauditi. L'Arabia Saudita ha nominato un nuovo principe ereditario giovedì in tarda serata. Il ministro degli interni, noto per aver represso i militanti islamici e resistito ad una maggiore apertura nel regno ultraconservatore, la TV di Stato Saudita ha annunciato la nomina del principe Nayef bin Abdelaziz Al Saud come erede al trono saudita in seguito alla morte del secondo in fila, il principe ereditario Sultan, la scorsa settimana. Nayef avrebbe assunto il trono alla morte del re Abdullah, 87 anni, che si sta riprendendo dalla sua terza operazione in meno di un anno per curare i problemi alla schiena. Iraq. Colpi d'arma da fuoco mentre la polizia confronta i manifestanti. Sono almeno 6 i morti per le proteste esplose ormai da 3 giorni nel paese, che si stanno diffondendo ovunque. In alcune città meridionali è stato imposto il coprifuoco, mentre internet è stato interrotto con una connettività scesa al di sotto del 70% da quando le manifestazioni antigovernative sono diventate violente. A Nassiriya almeno 3 manifestanti morti e un poliziotto. Altri 2 a Baghdad, centinaia i feriti. I manifestanti sono arrabbiati per la disoccupazione, la corruzione endemica e i servizi pubblici scadenti. Queste proteste sono la più grande manifestazione di rabbia pubblica nei confronti del governo del primo ministro Abdel Abdul Mahdi. Turchia, il proprietario del Washington Post, Jeff Bezos, per cui scriveva il giornalista ucciso nel consolato saudita ad Istanbul, si è unito agli attivisti e amici davanti al consolato per il primo anniversario della morte di Khashoggi. Il memoriale è iniziato nel primo pomeriggio alle 13:44, quando Khashoggi entrò nel consolato un anno fa per raccogliere i documenti necessari per sposare la fidanzata turca che lo aspettava fuori. Non è mai uscito. Durante la cerimonia gli attivisti hanno chiesto un'indagine completa alle Nazioni Unite sull'omicidio e garanzie che gli autori dell'omicidio, agenti dell'intelligence saudita, non rimangano impuniti. Si dirà pure fumi come un turco, ma non per quanto riguarda le sigarette elettroniche, che saranno vietate, ha detto il ministro della salute Fahrettin Koca, annunciando di star lavorando a un pacchetto di norme. Ci sarà anche un nuovo approccio nel definire gli spazi aperti e chiusi dei locali, ha anticipato il ministro, criticando il fatto che bar e ristoranti destinano spesso le loro aree migliori ai fumatori. Di recente Ankara ha anche introdotto multe per chi fuma in macchina, sia conducenti che passeggeri. E a proposito di sigarette elettroniche, negli Stati Uniti il bilancio di morti per malattie legate a quest'ultime è salito a 16. La scorsa settimana i Centers for Disease Control and Prevention, la massima autorità sanitaria federale, aveva annunciato che ci sono 805 casi confermati di malattie associate all'uso delle e-cig in 46 stati americani e nelle isole vergini americane. Sconosciuta la causa dell'epidemia, ma si segnala che oltre il 75% dei pazienti hanno consumato il THC, il principio attivo della marijuana. Israele, un'audizione di garanzia relativa a sospetti di corruzione, frode e abuso di ufficio emersi nei confronti del premier Netanyahu, iniziata ieri nell'ufficio dell'avvocato generale dello Stato Avichai Mandelblit, che è assistito da una ventina di collaboratori. Il premier, rappresentato da una squadra di 10 legali che nei prossimi giorni cercheranno di sventare il rischio di una incriminazione. Egitto. Amnesty International ha condannato la più grande repressione sotto il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi a seguito delle proteste antigovernative del mese scorso. Amnesty ha detto che le forze di sicurezza egiziane hanno arrestato più di 2.300 persone, tra cui 111 minori. Gli arresti di massa sono avvenuti a seguito delle proteste scoppiate il 20 settembre dopo le accuse di corruzione di un uomo d'affari egiziano e star del cinema che vive ora in esilio autoimposto contro il presidente e l'esercito. Il presidente al-Sisi ha respinto le accuse come menzogne trasparenti. Nadja Bonaim, direttrice delle campagne di Amnesty per il Nord Africa, ha dichiarato che il governo di al-Sisi ha orchestrato questa repressione per schiacciare il minimo segno di dissenso e mettere a tacere ogni critica al governo. Tunisia, la commissione elettorale vuole che il candidato alla presidenza detenuto possa essere intervistato e quindi comunicare con gli elettori prima del ballottaggio del 13 ottobre. Nabil Karoui, magnate dei media, è stato incarcerato ad agosto con l'accusa di corruzione. Nonostante questo e nessuna esperienza politica, è passato al secondo turno delle elezioni insieme a un professore di legge relativamente sconosciuto, Kais Said. Ieri il capo della commissione elettorale, Nabil Bafoum, ha dichiarato di aver parlato con i funzionari giudiziari e con il giudice nel caso Karoui, che ha deciso di non liberare il candidato. Ha ricordato loro che entrambi gli aspiranti alla presidenza meritano pari opportunità per elezioni democratiche. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. Più di 1000 migranti sono morti nel Mar Mediterraneo quest'anno, il sesto anno consecutivo che questa pietra miliare desolante è stata raggiunta, hanno dichiarato le Nazioni Unite. L'Agenzia ONU per i rifugiati, l'UNHCR, ha chiesto agli Stati membri dell'Unione Europea di riattivare le operazioni di ricerca e salvataggio e di riconoscere il ruolo cruciale delle navi ONG nel salvare vite umane in mare. La tragedia del Mediterraneo non può continuare, ha dichiarato Charlie Yaxley, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Corpi di 5 migranti sono stati trovati lunedì sulla costa atlantica del Marocco vicino a Casablanca, portando a 12 il numero di morti uccisi quando la loro barca si è capovolta sabato, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale. Europa, dal 18 ottobre prossimo saranno applicati dazi su prodotti europei dagli Stati Uniti su 7,5 miliardi di dazi, come autorizzato dalla WTO. L'ammontare sarà diversificato dal 10% sugli aerei commerciali al 25% dei prodotti agricoli industriali come formaggio e prosciutto. Si salvano vino e olio. Russia, il presidente Putin, dopo aver letto la trascrizione della telefonata tra presidente americano Trump e il presidente ucraino Zelensky, ha commentato con un niente di male difendendo Trump. Il presidente del Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, ha un debole per gli eventi televisivi drammatici. Il 1 ottobre ha licenziato il ministro degli interni in diretta, umiliando Iskender Mulikov. Sentiamolo. Mulikov, durante il periodo che hai governato il ministero a cui eri stato assegnato, hai permesso che delle scorrettezze avvenissero, sei stato negligente e per questo ti ho ripreso almeno 12 volte, nonostante questo hai fallito nel rimediare. Per la tua cattiva condotta ti licenzio da ministro degli interni e ti degrado da generale a maggiore della polizia. Ti tolgo tutti i benefici di Stato e ti pongo sotto la direzione del ministero degli interni. I tuoi nuovi capi decideranno del tuo futuro. Mulikov, hai qualcosa da dire? No, e allora vattene. E l'ex ministro, a testa bassa come tutti gli altri presenti, se n'è andato. Non è la prima volta che i politici vengono puniti in diretta. A settembre il ministro del commercio ha confessato in lacrime in TV di essere corrotto, dicendo: rimpiango quello che ho fatto. Anche altri hanno confessato in manette. I gruppi per i diritti umani ritengono il Turkmenistan uno dei paesi con il livello più basso di giustizia. Afghanistan, la Commissione elettorale indipendente ha annunciato che i voti alle elezioni presidenziali di sabato sono stati 2,5 milioni su 9 milioni di registrati al voto, mentre la popolazione dell'Afghanistan è di circa 29 milioni. Pakistan, una delegazione di talebani ieri a Islamabad per colloqui ad alto livello. La delegazione, guidata dal leader talebano Mullah Maradar Akhund, ha incontrato le più alte autorità del Pakistan ufficialmente su loro invito. Dopo essere stati in Russia, Cina e Iran, la delegazione sta incontrando i leader dei paesi vicini in cerca di sostegno per riaprire colloqui di pace con gli Stati Uniti. Alcune settimane fa il presidente Trump ha definito i negoziati morti. Da allora il Pakistan ha sollecitato Washington a riprendere i colloqui per porre fine a quasi 20 anni di conflitto. Corea del Nord ha testato un nuovo missile balistico lanciato da un sottomarino. E concludiamo con Hong Kong. Centinaia di persone nel Central District hanno manifestato la loro solidarietà allo studente ferito dalla polizia e hanno condannato la violenza delle forze dell'ordine. L'iniziativa, partita nella pausa pranzo, ha coinvolto molti colletti bianchi che hanno scandito lo slogan divenuto tra i più popolari: 5 richieste, non una di meno. In merito all'elenco di punti ancora insoddisfatti,

Tra le risorse che abbondano sul nostro pianeta e che fortunatamente sappiamo sfruttare, c'è quell'infinita gamma di colori data dalle frequenze elettromagnetiche che provengono dalla nostra stella. I fotoni, detti anche quanti di luce, sono gli elementi fondamentali di cui è composta la luce. E cosa più importante, al di là del permetterci di percepire i colori, i fotoni trasportano energia. Per questa ragione sono raccolti per produrre elettricità, cosa che avviene per esempio attraverso le tecnologie fotovoltaiche che tutti noi conosciamo. Ma ciò che non si sa è che c'è un'ampia parte dello spettro solare, quindi di fotoni, che non è ancora sfruttata. Come fare quindi per non sprecare tutta la loro preziosissima energia? Beh, ci hanno pensato i ricercatori dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, in particolare un team del Dipartimento di Scienza dei Materiali, guidato dai professori Angelo Monguzzi e Angiolina Comotti. Il team ha progettato e sintetizzato delle speciali nanoparticelle in grado di migliorare la capacità delle celle solari di raccogliere la luce e quindi di produrre energia sfruttando al massimo lo spettro solare. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto queste particelle infinitesimali realizzate in Bicocca si chiamano IPEF, acronimo inglese per un nome un po' particolare, nanoparticelle porose multicomponenti fluorescenti, niente di più semplice. E sono in grado di catturare i fotoni che solitamente finiscono per essere sprecati. Una volta catturate, queste preziose particelle di luce sono poi convertite in altri fotoni ad alta energia, che sono facilmente assorbiti dai dispositivi con cui poi noi produciamo l'elettricità. A rendere possibile questa trasformazione, che come spiegano i ricercatori si chiama upconversion, sono due molecole che formano il nuovo materiale e che interagiscono. La prima funge da antenna, quindi cattura l'energia all'interno della nanoparticella porosa. La seconda invece funziona come un convertitore emettitore, dunque riceve l'energia che proviene dall'antenna e a sua volta produce fotoni ad alta energia, quelli che poi possono essere sfruttati. L'applicazione più interessante per questo nuovo nanomateriale è proprio nelle tecnologie fotovoltaiche, in cui può essere usato per migliorarne l'efficienza. Tuttavia i ricercatori sono certi che potrà portare allo sviluppo anche di nuovi avanzati nanomateriali luminescenti che potranno essere impiegati in diversi campi, per esempio nel settore medico, al fine di realizzare dei nuovi marker per la bioimaging o ancora per costruire nuovi sensori luminosi che possano servire per individuare delle sostanze nocive e pericolose. Insomma, applicazioni pratiche che potranno essere molto utili sia nel comparto energetico, sia in medicina e diagnostica. Lo studio dell'Ateneo Milanese, ricordiamo infine, è stato pubblicato sulla rivista Advanced Materials. house is made of cheese. It's lit by lots of glowworms. If I'm wrong, correct me, please. The village is a pop-up book. The people wooden dolls. The roads are made from treacle. Think it's time that I moved on. My book is half a walnut shell. The journey will be long, so I fill the hold with peppermints and creamy pink blancmange. I sailed away for 15 days. It never once got dark, and came upon two large houses set out in a park. On the door of one was truth, on the other door was lies. Which one should I enter through? I really must decide. The doormat lies had lots of flowers growing round outside, but looking closer noticed it was crumbling inside. The doormat truth was very plain, but stood up very strong, and when I entered through its door I knew I wasn't wrong. Segna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. 9:31 minuti di questo 3 ottobre, giovedì. Buongiorno a tutti, anche se diciamo che la giornata politica economica non è delle migliori, perché i scenari politici, per esempio evocati da Rodolfo Parietti del Giornale, vi libera ai dazi nordamericani degli Stati Uniti d'America, stangata da 7,5 miliardi, a rischio il Made in Italy, barriera sulle merci dell'Unione Europea. Pompeo, l'inviato di Trump in Italia, mette nel mirino anche parmigiano e vino italiani, e sappiamo che il parmigiano e il vino da $12 in America andrebbero a 50-60, quindi praticamente escono dal mercato, e quindi il danno per i produttori italiani sono fortissimi. La motivazione formale sarebbe una sorta di decisione sulla faida dei cieli cosiddetta, dice sempre l'articolo, quella che contrappone da 15 anni Airbus e Boeing, tra accuse reciproche di aver beneficiato di aiuti fuori legge a terrorizzare gli investitori in inasprimento dei rapporti commerciali. Quindi il WTO, il World Trading Organization, dà ragione a Trump, e lui dice che per questo può mettere i dazi, ma in realtà è strumentale, non solo perché l'Airbus cosa c'entra con i produttori di grana o di vino, ma anche perché Trump ha fatto della sua campagna elettorale il protezionismo, e quindi questa sentenza, anche se andava in altro senso, Trump avrebbe fatto uguale identicamente. Ma di fronte all'incontro con il nostro Premier Conte, dove Conte perorava la causa italiana in nome della buona amicizia, gli ha risposto Pompeo, e lo dice il giornale: comprendo le vostre preoccupazioni, ma anche voi dovete tener conto delle nostre richieste, per pretese che sono che sostanziano maggiori investimenti nella difesa e quindi il pieno appoggio al programma relativo agli F-35. Quindi invece di dire rallentiamo i dazi, dice spendete di più nelle spese militari. Questa è la risposta nordamericana, tant'è che il manifesto racconta gli impiccioni Iran, Libia, Venezuela, lezione atlantista di Pompeo, Di Maio. Quindi ricordate che siete degli schiavi, questo gli ha detto, altro che alleati. Il segretario di Stato impartisce all'Italia gli ordini di Washington, tra diktat, se ci sarà una crisi petrolifera la colpa sarà di Teheran. Sulla Libia Pompeo ha detto che la soluzione non può che essere politica, e lavoreremo per convincere in tal senso tutti i nostri partner. Una dichiarazione che sa di presa in giro, anche perché Trump sta bombardando in Libia, questo è quanto. Ma questo è l'aspetto politico dell'incontro. L'aspetto economico invece apre il manifesto con cheese, cioè quindi non è una fotografia ma è il formaggio che va, scusatemi il francesismo, a puttane. La guerra dei dazi fa un passo avanti, il WTO dà ragione agli USA, potranno imporre la cifra record di 7,5 miliardi di dollari che sulle importazioni europee. Il segretario di Stato Mia Mike Pompeo, vino e parmigiano potrebbero essere colpiti, allarme dei produttori italiani. Questo è quello che dice il manifesto, che poi torna sull'argomento anche a pagina 3. Cheese, dazi amari e non dazi, gli USA spaventano l'Europa, quindi 1 miliardo di export, Bruxelles a rischio in Italia, quindi piove sul bagnato della manovra già così risicata. Bruxelles in attesa risposta contro le sovvenzioni statali a Boeing. Potrebbe esserci una controsentenza all'inizio dell'anno prossimo contro la Boeing, quindi potrebbe partire la guerra dei dazi tra Europa ed America, con i risultati del famoso sovranismo, cioè tutti giù per terra, come dice il girotondo. Scattano i dazi USA, cadono le borse, questo è il Corriere. Lo scenario descritto da Malmström, la commissaria dell'Unione Europea uscente per il commercio. L'Europa, scelte miopi per difenderci, siamo pronti a reagire. Troveremo un accordo equo. Buongiorno da Andrea Utensili, buongiorno Alfredo, buongiorno a tutti e a tutti. Trump si può dire che è la faccia da padrona sulle pagine principali dei quotidiani. Partiamo dal Resto del Carlino, i dazi USA, Mike Pompeo sotto tiro il parmigiano e conto da 2 miliardi e intanto le piccole borse europee vanno a KO. Viene compromesso la vendita e l'esportazione del prosecco, che passa secondo l'ipotesi dei dazi da 5-6 euro a 20-30 euro, e il parmigiano, partiamo sempre di esportazioni in America, da 18-24 euro passerebbe a 60-65, la mozzarella da 18 euro a 60, il prosciutto crudo da 28-34 euro a 70-90, la pasta raddoppierebbe, l'olio di oliva quadruplicherebbe. In effetti, come dice Alfredo, effettivamente sarebbe il blocco delle esportazioni, soprattutto di prodotti tipici italiani. Le borse europee sono in profondo rosso, subito dopo l'ok del WTO, ai dazi annuali minacciati da Donald Trump arrivano a perdere il 4%. Piazza Affari a Milano perde il 2%, arrivando al meno 2-3% in pesante ribasso anche Francoforte, Londra e Madrid. Come ricordava Alfredo, la motivazione data dal WTO è una guerra sui cieli, ovvero sulla contesa tra i Boeing americani e l'Airbus europeo. E a questo punto volevo proporre un editoriale, la lettura di un editoriale di Federico Rampini, che si chiede appunto dalle pagine di Repubblica, siamo passati a questo quotidiano, pagina 30, si chiede: ma per cosa c'entriamo noi il danno pesante che l'Italia rischia di subire per i dazi americani su molte eccellenze agroalimentari e la conseguenza di uno sconto di business aeronautico dove siamo marginali o addirittura assenti? Va inquadrato in una sfida a tutto campo che American First lancia all'Europa nel clima di seconda guerra fredda, che è il nuovo scenario geopolitico. Donald Trump ha ereditato la causa contro gli aiuti statali al consorzio franco-tedesco Airbus, che ebbe inizio sotto i predecessori di Bush e Obama. Ironia della sorte, a dare ragione a Washington è quella World Trade Organization di cui Trump ha minacciato di uscire, perché secondo lui non garantisce la reciprocità. Comunque, avendo vinto la causa, lui ha il diritto di infliggere un castigo da 7 miliardi agli europei. Nella lista dei prodotti tassati coi dazi c'è lo champagne, il cognac, ma c'è anche il Made in Italy, l'Unione Europea è tutt'uno con le politiche commerciali. Gli Stati Uniti tendono a massimizzare il danno politico colpendo il più ampio numero di stati possibili in modo da aumentare la pressione. Però sui dazi il Dipartimento di Stato è solo uno degli interlocutori, pesano i dipartimenti del Tesoro, il Commercio Estero, dove Trump ha messo alcuni falchi del protezionismo, e soprattutto l'ultima parola l'avrà per l'appunto Trump, conclude Federico Rampini, tentato come sempre da mercanteggiamenti a fini personali. In Europa, secondo le ultime rivelazioni, Trump cerca informazioni e aiuti inconfessabili nella sua battaglia contro l'impeachment. L'Avvenire: pagheremo dazio. Il Gazzettino del Mezzogiorno: dazi USA, Italia alza la voce. Bene o male, viene a dire che Trump ha definito il nostro premier l'amico Giuseppi, perché se era un nemico lo bombardava direttamente. Comunque, ma d'altra parte sappiamo che dell'America comunque non si può parlare male, perché è sempre un grande paese. L'America, fammi l'amore, fate sempre più forte. ti accarezzo troverò. Ma quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due. Quando ognuno pensa alla sua solitudine, non sa cosa chiede, chiede, chiede, chiederà. Fammi sognare, lei le mani sui fianchi come fosse l'America. Fammi volare, lui che scende e che sale e si sente l'America. Gianna Nannini, dunque l'America, ma torniamo in Italia, perché tutto questo, dicevamo, fa piovere sul bagnato su una manovra che, come dicono i stessi responsabili del governo, dell'esecutivo, è una manovra che almeno per quest'anno andrà a coprire i buchi, poco di più. E tant'è che Alfonso Gianni, nella pagina dell'articolo di fondo del Manifesto d'Apertura, parla della manovra che speriamo che me la cavo. L'incrocio di diversi divieti, dei timori di assumere decisioni che possono, seppur lontanamente, favorire la propaganda demagogica delle destre, sta producendo una sostanziale paralisi nelle scelte di politica economica, commenta Gianni. Il presidente di Confindustria dà saggi di realismo, dichiarando di non avere risposto grandi aspettative nella manovra. Persino la segretaria della CISL confessa che la famosa discontinuità sul piano della crescita non c'è. Sembra meno ingenerosa la CGIL, che giudica giusta la direzione ma attende i numeri e la velocità. Eppure il contesto immediato si presenta meno aspro di altre volte. Il temutissimo spread viaggia sull'onda dei 140 punti, il 2,2% di deficit pare cosa acquisita. La Commissione europea si appresta a concedere di nuovo al nostro paese una nuova flessibilità per 14 miliardi. Certamente pesa la minaccia di una nuova recessione su scala mondiale. Abbiamo visto i dati e vedremo anche la Brexit. Questo è il quanto. I giornali dell'estrema destra, come sempre stamattina, si inventano, come se fossero inventarsi, del catastrofismi. Quindi la verità, il governo prepara la supertassa, ogni giorno la verità ci dà una news diversa e poi viene regolarmente smentita. Vedremo poi alla fine di questo percorso, alla fine della fiera, come sarà la manovra. Libero, botte a chi non paga le tasse, quindi sembra, no, ci sono delle squadracce in giro per l'Italia, che perché chi non paga le tasse, racconta il giornale. I commercianti, l'ira, il governo ci perseguita, perché perseguiterebbe i commercianti? Mentre il governo giallorosso delinea i margini di azione della manovra, l'idea di colpire i commercialisti con un DASPO, i commercialisti sono i commercianti, sono i commercialisti, in caso di irregolarità, di dichiarazione di catena, reazione della categoria. Beh, se uno fa un'irregolarità fraudolente, è chiaro che deve essere perseguito, non ci dovrebbe essere niente di clamoroso. Si parla molto poi di recupero dell'evasione fiscale e qui, anche qua, abbiamo pareri assolutamente contrastanti. Per cui, per esempio, Milano, vediamo i grandi evasori. I PM indagano su Netflix, quella delle serie, incassa milioni, non paga le tasse, un po' come Amazon, eccetera. È un po' lo sport, no, di questi personaggi. Il fascicolo contro ignoti perché il gruppo non ha referenti in Italia. Oddio, io quando pago il canone di Netflix ho un referente in Italia. Però evidentemente svanisce, quando metto dentro quei soldini con la carta di credito, svanisce nel mondo di Oz, del mago di Oz. E allora Francesco Greco, colto dal Fatto Quotidiano, fa un discorso che credo sia nella testa di molti di noi. Duri con i poveracci, deboli con i furbetti, è una presa in giro. In Italia chi ruba una lattina va in carcere, chi evade invece viene premiato. Questa politica del perdonismo deve finire. Naturalmente Greco, il magistrato, la vede sul contrasto della repressione, non tanto sul fare le leggi. Il contrasto al fenomeno non va mischiato con le politiche fiscali, sono due cose diverse in tutti i paesi tranne che in Italia. Aumentare le pene e ridurre il cash serve, da noi però c'è una benevolenza verso chi frega il fisco, così si dà il segnale che siamo tutti evasori. Anche qua c'è una cosa a cui il governo non risponde per il momento, è perché di fronte alla giusta richiesta di far pagare con le carte di credito in modo elettronico per tracciare i denaro e evitare il nero, perché non si tolgono le commissioni alle banche. Naturalmente questa cosa non se ne parla, questo è un tabù. le banche sono qualcosa di intoccabile. E ho ripreso la notizia di cui accennava Alfredo al DASPO, ai commercialisti e quindi ai provvedimenti che interrompono l'attività professionale di questi professionisti, e al momento è demandata all'ordine e diventa invece con questo provvedimento una regola a carica del governo. Si tratta di un DASPO temporaneo o permanente a seconda della gravità della violazione del commercialista, per colpire i professionisti che appongono un visto di conformità non fedele e certificano in modo fraudolento i crediti inesistenti. Questa è una delle nuove norme volute appunto da il nostro Presidente del Consiglio Nicola Conte, no, Giuseppe Conte. E ancora sulle pagine del Carlino, pagina 6 e 7, ancora si parla di denaro elettronico e il fascino delle banconote, la stretta sugli evasori e la crociata anticontante, nascosti al fischio fisco 91 miliardi. Allo studio del governo bonus per i pagamenti tracciabili. La somma dell'evasione fiscale risale ai contributi e anche ai contributi previdenziali, sono 109 miliardi. 37 è la stima dell'evasione dell'IVA nel nostro paese, un terzo di quella totale viene appunto evasa. In Italia, e sempre dal Carlino, a pagina 3 c'è uno schema su come vengono effettuati i pagamenti e solo il 15% degli acquisti viene effettuato con carte e bancomat. Siamo agli ultimi posti dell'Unione Europea. Ancora abbiamo una notizia, la andiamo a prendere, notizie sempre su questo argomento, dalle pagine di Repubblica. Questa riforma viene ripresa appunto riguarda appunto il ticket, conta e frena e ci vorrà tempo, la difficoltà dei tecnici è al vaglio del ministro Speranza. Il ticket sulla sanità, il contributo al momento si applica solo al 29% dei cittadini e andrà rimodulato su chi ha redditi più alti. È un articolo di Michele Bucci. Chi paga il ticket in Italia sono 12 milioni, gli esenti per reddito sono appunto 67 milioni le ricette consumate, i non esenti che pagano e si rivolgono ogni anno al sistema sanitario sono circa 20 milioni, e gli utenti in Italia della sanità pubblica sono 44 milioni all'anno con 24 milioni di esenti. Parlando di tasse, poi abbiamo un gran attivismo dell'Italia Viva, il neopartito di Renzi, che però si guadagna, e non in bene, la prima pagina del Fatto Quotidiano. Tasse. Renzi rompe, ma l'evasione con lui è cresciuta. Nel 2016 aumentò da 107 a 109 miliardi. Con le sue riforme dei contanti a 3.000 euro e le soglie di impunità più alte, la piaga si allargò. Il PM greco, appunto, allora interviene dicendo che è più facile se rubi una bibita, più facile andare in galera. Poi sappiamo che dobbiamo difendere le radici cristiane, quindi la vignetta di Vauro è un Berlusconi con la cravatta tricolore. Difendiamo le nostre tradizioni, crocifissi, tortellini ed evasione fiscale. Insomma, sono le radici cristiane che vengono evocate. Ma il giornale, naturalmente, ha già il manganello della gogna mediatica del fango. Per cui, scandalo social, il ministro della scuola, violento e sessista, da che pulpito verrebbe da dire. Per Fioramonti, un curriculum di odiatore sul suo Facebook, decine di attacchi deliranti contro politici e forze dell'ordine. Quindi si è aperta la caccia venatoria ai ministri col giornale. Nel frattempo, sempre su per guardare i partiti col Corriere, legge elettorale, patto sui tempi, ma la prescrizione divide 5 Stelle e PD, dice il Corsera con Dino Martirano. Bonafede, la riforma deve andare avanti, perché martedì, se non vado errato, andrà in scena l'ultima votazione per sancire il taglio dei parlamentari. Però in attesa di quelli che sono i famosi contrappesi richiesti sia dal PD che da Leo per controbilanciare questo taglio di fatto di democrazia, perché altro non si tratta. I tormenti dei parlamentari che devono autorottamarsi e come tagliarsi una mano. Gli ex si stanno divertiti e sono capponi a Natale. Questo è il racconto di Monica Guertoni da un punto di vista così di colore. In realtà tagliando i parlamentari si taglia anche la rappresentanza popolare dei parlamentari stessi. E soprattutto si tagliano i cosiddetti peones, perché i segretari di partito non verranno affatto tagliati. Quindi si taglia anche da parte degli elettori la possibilità di dare un ricambio ai quadri di partito, perché tanto non verranno presentati. Questo è quello che succederà in nome del risparmio sulle coste della politica. D'altra parte la politica è precipitata in basso. Quindi Salvini cerca il duello con Di Maio, ha problemi psicologici con me. Salvini ormai è un po' la frutta, perché a forza di dire qui c'è un complotto contro di me, che lui stesso ha ordito facendo cadere il governo, quindi a modo di Tavazzi dell'estrema destra, il capoleghista della Conte invece Corriere con Massimo Franco vorrebbe assediare il governo affrontando anche il premier Conte in un faccia a faccia davanti alle telecamere, ma per ora dovrà accontentarsi di Renzi, anche perché Salvini sta vivendo davvero un momento poco felice, perché sta calando vistosamente nei sondaggi, l'ultimo da sotto il 30, lui che era al 38 fino a due mesi fa, e voti che sembrano non vadano tanto al centro-sinistra o poco Forza Italia, ma chi ne guadagna è Fratelli d'Italia della signora Meloni, quindi più sfacciatamente fascistoide. E allora dice la notizia: inchieste e sondaggi in calo, sempre più nere le giornate del capitano, giornate sempre più nere per Salvini, alle prese con sondaggi in calo, le richieste sulla Lega e le inchieste. Ieri la giunta del Senato ha dato il via libera al sequestro dei personal computer dell'ex segretario Siri, mentre si stringe il cerchio sul Savoini per il Russia Gate. Insomma, c'è un momento non dei migliori per il capitano. Sì, a questo punto passiamo all'ambiente e parliamo di l'inserto di Repubblica che fa interviste a persone che sono direttamente a contatto con la natura. L'Italia ha subito un aumento della temperatura di 1,5 gradi, i mari si sono riscaldati di 2 gradi e chi è già nella natura trascorre la vita e osserva le differenze. Hanno intervistato un vignaiolo, il quale ci dice che sulle viti vi sono i nuovi parassiti, così il vino diventa ancora più a rischio. C'è un tartufaio che dice che la stagione dei tartufi si è spostata ad un mese e si sono rimpiccioliti. E poi c'è un pescatore che ci dice che l'Adriatico è sempre più caldo e non si trovano più le spigole, ma si trovano specie di pesci tropicali. Un gestore di un rifugio in alta montagna dice che la neve è più abbondante ma si scioglie molto prima, e abbiamo le notizie appunto del ghiacciaio sopra il Monte Bianco che si sposta precipitosamente verso il basso, mentre invece un agricoltore in Sicilia ci dice che il clima tropicale è diventato e ora crescono mango e avocado. E ancora questa notizia viene ripresa dalla pagina interna del Sole 24 Ore, il quale ci fa presente che in agricoltura quest'anno sono previsti 1 miliardo di danni da cimici e nuovi agenti patogeni, come ad esempio la Drosophila Suzuki che attacca i lamponi e poi si sposta anche sull'uva, è un piccolo moscerino. Poi c'è l'insetto cinese che flagella i castagni, le castagne italiane pagano un conto salatissimo per colpa della cinipide galligena del castagno proveniente dalla Cina, nella pianta provoca la formazione di grossi ingrossamenti delle gemme di varie dimensioni. E poi c'è il calabrone killer delle api da miele, la produzione made in Italy del miele di acacia, di castagno, di agrumi e di millefiori è minacciata da due insetti killer, il calabrone asiatico e il coleottero africano. Entrambi insetti mangiano e rovinano il miele, il polline e soprattutto la covata. E poi c'è ancora il punteruolo, il famoso nemico delle palme, dalla Liguria al Molise, e questo insetto coriaceo di quasi 3 cm proveniente dall'Asia ha fatto una strage delle palme sulle nostre riviere. E ancora un'altra notizia che riguarda l'agricoltura, sempre dalla pagina 10 di Repubblica. L'olio pugliese resiste alla xylella e la produzione quest'anno è a più l'89%. Dalla Puglia arriveranno infatti il 60% di tutto l'olio extravergine nazionale. E c'è ancora una notizia che riguarda l'ambiente sulle pagine del Carlino, pagina 4. Oggi inizia a Milano alle ore 10 il Festival delle Città e ci sarà l'incontro tra i giornali e le città. Ci saranno relatori come Andrea Martella, il sottosegretario all'editoria, e Andrea Rifser Monti, presidente dei Poligrafici, editoriale della FIG. Ci sono anche presenti due sindaci, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, presidente dell'Associazione per le Autonomie Locali Italiane, animatore del festival, proporre di ridurre l'IVA al 4% per i lavori pubblici dei comuni, per il green, le scuole, la trasformazione della città in senso verde. E poi c'è anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, primo cittadino di Firenze, rilancia l'idea di Ricci: vorrei collegarla al mio progetto per un Green Act, cioè 1 milione di alberi nuovi in 5 anni, la sostituzione di 7 milioni di caldaie nella città e la mobilità elettrica. Questo ci dice il sindaco di Firenze, Dario Nardella, appunto presente a questo festival che parte oggi a Milano. E ancora volevo segnalare sulle pagine di Repubblica, pagina 30, un commento di Carlo Petrini sul sinodo che al Vaticano andrà a iniziare il 6 ottobre, che è destinato all'ambiente e all'Amazzonia. E inizia questo articolo, inizia appunto così, dice: quello che inizia il 6 ottobre alla città del Vaticano è qualcosa di destinato a rimanere nella storia, non solo nella Chiesa. Domenica avrà inizio il sinodo speciale per la regione panamazzonica che coinvolgerà oltre auditori da diverse parti del mondo, vescovi provenienti dai 9 paesi amazzonici, un'assemblea convocata da Papa Francesco nell'ottobre del 2017, quando la questione amazzonica non era ancora la drammaticità attuale. E sull'Amazzonia ricordiamo che insistono 9 paesi del Sud America e in questo momento il governo di Bolsonaro sta cercando di sfruttare appunto per l'industria agroalimentare appunto la foresta amazzonica, con disboscamenti e incendi dolosi e usurpazione della terra ai contadini. Si apre invece a Roma oggi il forum sulla sostenibilità delle risorse idriche di Legambiente. L'oro blu, un bene comune, ricordiamo. E se facciamo il giro delle città, vengo a Bologna. Il Comune dichiara l'emergenza climatica ed ecologica col manifesto. Leggiamo che il testo proposto dagli attivisti di Extinction Rebellion spiega la consigliera Emily Clancy di Coalizione Civica. Cosa prevede la dichiarazione? Innanzitutto è un importante atto simbolico, perché lunedì 30 settembre il Comune di Bologna ha riconosciuto tutto cosa sta accadendo in pianeta e come ci siamo arrivati. E dice la Clancy che sembrava improbabile questa votazione, perché il PD aveva una sua versione di un documento sul clima che è cambiato dopo la grande mobilitazione del venerdì e dello sciopero generale. E infatti, leggo dal manifesto, tutti giù per terra. Ribellarsi giusto, perché l'estinzione è in corso adesso, quindi non si discute del 2050. Dal 7 al 13 ottobre la settimana internazionale in difesa del clima del movimento Extinction Rebellion, appuntamento anche appunto in capitale, a Roma. I governi, dice Lorenzo, attivista di questo XR, devono far ciò che è necessario per non ciò che è possibile, altrimenti vivremo in prima persona la peggior catastrofe della storia umana. Ma parlare di ambiente è anche pericoloso, perché leggo in Turchia: scienziato divulga studi ambientali e finisce in carcere, quindi al contadino non far sapere, eccetera eccetera. Uno studio che mette in relazione inquinamento e alte incidenze di tumori nella Turchia occidentale è costato 15 mesi di carcere a Bulent Sik. Notizie che trovo dall'extraterrestre inserto di giovedì del manifesto, che oggi invece apre con un poco di zucchero la pillola va giù, ovvero sia casta da zucchero. La tassa sulle merendine funziona, almeno nei paesi del mondo in cui è stata introdotta, quindi la tanto demonizzata tassa sulle merendine. Fa bene alla salute e indirizza i consumatori verso prodotti di qualità, ma le lobby delle multinazionali del cibo e delle bevande sono spietate, controllano il mercato, condizionano le scelte politiche dei governi, impongono stili di vita. In Europa spendono ogni anno 21,3 milioni di di euro solo per attività di pressione, quindi lobby, interventi sui giornali, pagare alcuni scienziati che dicono che lo zucchero fa solamente bene, eccetera. Le campagne pubblicitarie fanno il resto, ecco perché forse in Italia la sugar tax proposta dal ministro Fioramonti è morta prima ancora di nascere. Questo è anche perché in Italia, quando si sente la parola tasse, la gente ormai non ragiona più, carica a testa bassa senza domandarsi per chi, per come e perché. Questo è quello che arriva dal Manifesto, ma sempre su questi temi andiamo alla Biennale di Istanbul, la stessa Turchia che è messa in galera, però vedete che il mondo a volte è complesso. La Biennale di Istanbul, arcipelaghi della devastazione. La 16ª edizione, visitabile fino al 10 novembre, è dedicata al 7° continente, ovvero plastiche e detriti. Sappiamo che sono delle isole intere più grandi della Sardegna che girano nel mare, nell'Oceano Indiano. Tra il Masfau e la Peramuzese e l'isola di Bukiada è curata da Nicolas Bouriaud. E quindi è la pagina culturale, ma una cultura che mette i piedi nella terra, offerta dal Manifesto. Torno alle città, perché a Roma le cose vanno male, perché leggo Roma fuga dei rifiuti, quindi l'incapacità di fare i conti con una serie raccolte differenziate e riciclo di rifiuti porta comunque al disastro. I medici dicono scuole chiuse, quindi è un'eterna emergenza, ma non è un'emergenza, è una cosa endemica. Per l'ordine o si trova un rimedio rapido sul caos in strada o scatta l'emergenza sanitaria, dice il giornale. Con De Feo, bisogna evitare che si creano cumuli di sporcizia in strada, ospedali, luoghi pubblici, vicino a luoghi pubblici. In centro la situazione si aggrava al giorno in giorno, intervengono le ASL di zona. Girando poi pagina, nella pagina successiva, troviamo comunque qualcuno che comincia a pensarci. Per esempio, la novità che arriva dall'Unione Europea, la discarica può attendere, sarà più facile riparare il frigo, quindi non compri un frigo, dura 5 anni per buttarlo via perché è fatto apposta per durare poco e vendere di più. L'Unione Europea dichiara guerra all'obsolescenza programmata, così viene definita dagli operatori economici, ricambi degli elettrodomestici disponibili per 10 anni, saranno in vigore dal 2021, risparmio dei consumatori, benefici per l'ambiente. Vedremo cosa ne penseranno le famose lobby che abbiamo visto sempre in essere e in azione. Arrivo in Normandia. Paura in Normandia, incoerenze e silenzi sull'incendio di Rouen. Brucia questa fabbrica chimica altamente velenosa, naturalmente a fronte dell'incapacità di dare una risposta si sta zitti. Dube tossica, malori e nausea, racconta Luana De Micco dal Fatto Quotidiano. Vomito e mal di testa, nell'area in cui è bruciato l'impianto Lubrizol giovedì scorso l'aria è ancora irrespirabile. La procura minimizza, nessun rischio, perché anche se fosse alto rischio, cosa dico alla gente? Non respirate, quindi nessun rischio. E allora questa è la prefettura di Rouen, e mentre vado ancora ad altri temi, si parlava di appuntamenti, come no, tutti i colleghisti, salta il convegno sui rifiuti, succede a Terni. All'incontro organizzato dai candidati del Carroccio era prevista anche il procuratore generale, era una tavola rotonda che doveva chiamarsi Terni e l'ambiente, fatto dai leghisti che sono per fare tutto di più. E alla fine, insomma, nessuno, tutti che hanno visto l'aspetto spietatamente elettorale, tutti sono tirati via e non è rimasto più nessuno, allora anche il convegno è saltato. Invece, già tu ne parlavi, non salterà il convegno con Chiesi e diritti. E racconta Antonio Spadarosi e Maurizio López Orpeza, sempre dal Fatto Quotidiano, perché il sinodo va in Amazzonia. Dunque, questo è il motivo, la periferia contribuisce alla conversione di questo centro che ha perso in un certo senso parte della sua capacità di ascolto e meraviglia di fronte alla voce sempre nuova e rinnovata dello spirito. Cioè, quindi le periferie del mondo sono quelle che forse hanno più da dire su queste vicende. Torno invece, e che non è poi così scollegato all'ambiente, al tema del lavoro. Conte convoca le parti sociali. Tasse sulle badanti, scoppia il caso. Non si può fare cassa a spese delle famiglie. Taglia il costo fisso delle bollette. Questi sono i temi del confronto tra le parti sociali e i sindacati. Nel frattempo si parla ancora di ciclo fattorini, perché se ne parla a terra di tutti i film festival. In vista di questa 13ª edizione dell'iniziativa, oggi si parla di Pizza Boy, che questo così è molto bello, in realtà c'è una realtà meno entusiasmante. È in realtà un cortometraggio diretto da Gianluca Zonta che affronta il tema appunto dei diritti dei riders e dello sfruttamento dei migranti. La scena è quella di un ambiente sociale rinchiuso in se stesso, votato all'incomunicabilità e al disprezzo del diverso, ma nonostante tutto c'è ancora speranza. La nostra Sara Spimpolo ha raggiunto il regista e sentiamo le sue parole. Pizza Boy è la storia di Saba, che è un portapizza di origine georgiana, che una notte in cui è al lavoro riceve una chiamata da sua moglie che gli sono rotte le acque e quindi dovrebbe andare all'ospedale da lei. Solo che non può allontanarsi perché deve fare le ultime consegne e non può lasciare il lavoro. E quindi sarà una specie di corsa contro il tempo per cercare pescare di sfrigarsi con queste consegne e raggiungere la moglie. E in questo suo viaggio incontra delle persone che non mostrano nessuna empatia verso i suoi confronti, anzi lo trattano in maniera molto dispregiativa, non sembrano, non hanno una minima vicinanza con lui. Comunque non ti dico poi come finisce il suo corto. No, certo, lasciamo un po' di suspense. Ti volevo chiedere, nel film si intersecano comunque diverse tematiche sociali e problematiche molto attuali? Sì, nel film diciamo che ha due tematiche principali. Una è quella di questi lavoratori precari che comunque sono in situazioni in cui non possono allontanarsi dal lavoro anche se hanno un'emergenza o una cosa come la nascita di un figlio. E in questo periodo poi storico adesso questi servizi sono sempre più diffusi, quindi i rider si stanno diffondendo sempre di più e anche le persone ormai ordinano tutto online, non c'è più un contatto umano. E nel corto volevo mostrare anche questa cosa, che a me sono tutte persone isolate, non sanno neanche più rapportarsi con gli altri, quindi vedono questo giovane qua ma non lo vedono come un ragazzo che potrebbe avere i suoi problemi, le sue necessità, è soltanto un mero esecutore della loro consegna. Certo. Mentre invece cioè lo spettatore che si identifica con lui sa che lui ha delle urgenze e quindi vede appunto queste persone qua che non hanno un minimo rispetto, considerazione per lui. L'altra questione invece riguarda la sua nazionalità. Il protagonista è georgiano, quindi un italiano che è venuto qua in Italia, quindi c'è un lavoro precario che non può lasciare e gli nascerà un figlio. E quindi qua entra in gioco la questione dello ius soli. Questo suo figlio che nasce in Italia non avrà la cittadinanza italiana e quindi che futuro potrà avere, vista poi tutta l'umanità che vediamo durante il corto. Però il messaggio che poi voglio dare alla fine, e qua faccio un po' di spoiler sul finale, il nostro protagonista darà un nome italiano al bambino perché secondo lui l'integrazione è ancora possibile, nonostante tutto quello che è successo. Quindi un messaggio di speranza sul finale. Sì, un po' di speranza c'è. Quello dei diritti dei riders è un problema particolarmente sentito a Bologna. A te come è venuta l'idea di questo corto? A me è nata un po' per caso l'idea, dalle mie esperienze poi di consegne con chi pizza con questi fattorini, ho iniziato a pensare anche a una storia vista dal loro punto di vista, perché uno appunto si riceve questa merce ma non pensa mai alla persona che la consegna, che magari deve farci quattro piani di scale ma uno non ha voglia di andare giù ad aiutarlo, e quindi mi è venuto in mente di raccontare questa storia e poi volevo dargli un contesto un po' più ampio, cioè una storia un po' più accattivante, diciamo, con l'urgenza della nascita, anche un po' un pretesto la storia della nascita per raccontare anche questo aspetto. Il tuo cortometraggio verrà proiettato nell'ambito della rassegna cinematografica Terra di Tutti Film Fest nella sezione Fare Cinema Sociale a Bologna. Ricordiamo quando e dove ci sarà la proiezione? Giovedì prossimo, 10 ottobre, alle 19:30 al Cinema Galliera, la prima proiezione bolognese, quindi sono molto contento anche di poterlo proiettare qua in città, che comunque è stato girato tutto a Bologna l'anno scorso, quindi sarà anche l'occasione per tanti del cast e della troupe che non hanno ancora visto per vedere il corto. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. 10 e... Dieci e 07 minuti primi, ritorniamo in diretta con la rassegna stampa, riprendiamo dalle cronache locali italiane e... È uscita la sentenza della Corte d'Appello per Luca Traini, è stata confermata la condanna a 12 anni per appunto avere ferito gravemente oltre 7 persone il 7 febbraio del 2018. Alle 9:30 di mattina in quel di Macerata. Ancora abbiamo un'altra notizia ed è la morte di Squinzi, 76 anni, ieri sera all'ospedale San Raffaele di Milano, dopo una lunga malattia, l'imprenditore Giorgio Squinzi, prima patron della Mbampei e poi presidente di Confindustria tra il 2012 e il 2016, si è spento. Ancora notizie che riguardano la cronaca italiana, le prendiamo da Repubblica, e riguardano appunto il caso Russia Gate, e c'è un video di Report con Savoini e Salvini assieme nella capitale il giorno prima dell'incontro con i russi dell'hotel Metropole, e probabilmente verranno fuori notizie ancora più pesanti. Ultima notizia dalle pagine della cronaca di Repubblica, riguarda la politica, è la riforma del ministro Bonafede, ministro guardasigilli della giustizia. La novità della riforma: Bonafede prevede di cambiare il modo di eleggere i togati del Consiglio Superiore della Magistratura, con due fasi: prima un sorteggio tra 9.500 toghe e poi il voto sui sorteggiati, e c'è contrari PD e LeU. Tempi stretti per il PM, 18 mesi per l'indagine preliminare, e solo per i reati più gravi una deroga, un anno e sei mesi per i reati puniti fino a 3 anni con la pena pecuniaria. Solo una volta il pubblico ministero può chiedere 6 mesi in più. Processo penale non durerà più di 4 anni per i processi uso sistematico dei sistemi telematici, motivazioni e sentenze brevi, stretta a ricorso in appello, eccezioni solo per reati molto gravi. Per quanto riguarda le toghe in politica, chi si candida ed è eletto non può tornare a fare il magistrato, chi non è eletto resta comunque fuori per 5 anni dalla zona dove si è candidato. Sì, il Parlamento poi sarebbe anche atteso a una legge sul fine vita dopo la sentenza della Consulta e della Cassazione, ma penso che questa legge può attendere. Nel frattempo abbiamo i commenti: Grillo il fine vita, no ai bacchettoni, lasciate scegliere al malato, c'è una sentenza a Roma che fa scalpore e scandalizza la destra, stop le cure se c'è la volontà anche senza biotestamento, perché la persona malata aveva una chiarissima volontà di essere senza cure e accanimento terapeutico, allora è stata lasciata morire. Poi naturalmente abbiamo il no di Lega, Fratelli d'Italia ad ogni forma di fine vita. Anche Paola Binetti contesta la stima del 93% degli italiani favorevole all'eutanasia dell'indagine SVG Cuscioni. Quindi qui si contestano anche i sondaggi, le indagini. Nella solita parodia all'italiana. Vengo invece al Manifesto, che ci ricorda quei 300 migranti morti a 300 metri dall'Europa. Lampedusa cadde il 3 ottobre del 2013. Devo dire che uomo avvisato per nulla salvato, tanto più si affoga, perché da allora tante altre tragedie nel mare sono accadute. Quello che ricordo di quella notte è che non vorrei ricordare proprio niente. Il medico di Lampedusa Pietro Bartolo, che ha ancora ben vivo negli occhi l'orrore del naufragio che il 3 ottobre 2013 costò la vita a 368 migranti. La capitaneria mi aveva avvertito, ma non pensavo che ci sarebbero stati così tanti morti. Ma appunto c'è chi non fa una piega. Vado nel famoso confine del Rio Grande tra Messico e Stati Uniti d'America. Lì c'è un'indiscrezione del New York Times: l'idea di Trump sul muro, fossato coi coccodrilli. Il tycoon avrebbe proposto anche punte elettrificate. Lui smentisce solo fake news. Dunque, dice Trump, ora i media stanno cercando di vendere il fatto che voleva al confine un fossato pieno di alligatori e serpenti con una registrazione elettrica e cima puntite. Posso essere duro con la sicurezza alle frontiere, ma non così duro. La stampa è impazzita, fake news. Ma in realtà non sarebbe l'unica proposta fatta, ci fonti da Casa Bianca peraltro, da Donald Trump. Anche altre ne leggiamo, soluzioni definite estreme. Dopo aver suggerito che pubblicamente che i soldati sparassero i migranti che si tiravano delle pietre, il presidente fece marcia indietro quando gli fu rispiegato che ciò era illegale. Poco dopo però i suoi collaboratori hanno riferito che in un incontro suggerì che sparassero loro alle gambe, ma pure in questo caso gli fu risposto che non era permesso. Questo è Donald Trump. Veniamo invece a temi che riguardano anche la nostra città. Bologna abbraccia il Cardinal Zuppi, dice il Corriere di Bologna. Dopo le polemiche, quelle famose, no? Se il ripiano del tortellino era radici cristiano o meno, il sostegno dei cattolici, e si prepara lo sbarco di 1000 a Roma. Sento che Zuppi non sapeva nulla, la colpa di questa sfoglina volontaria, poveretta, che Lazzari Pallotti, che ha pensato di fare i tortellini normali, quelli tradizionali, ma anche una versione al pollo per chi non può mangiare il maiale. E lì apriti cielo. Sembra che l'Italia fosse costretta a mangiare semolino per tutta la vita. Lei se diceva che voleva dimettersi da capo delle sfogline. Oggi si offese e derisa per l'idea del pollo, ma sarò in piazza. La sfoglina sfinita nel mirino, la sfoglina islamista, così viene descritta dalla Borgonzoni e da altri leghisti della nostra patria. Ma allora la cattiveria è questa: Matteo Salvini si dichiara che i tortellini di pollo tecnicamente sarebbe cannibalismo. Questo dice Spinotto nella sua cattiveria. Veniamo invece al Vaticano. Al Vaticano con il Corriere di Bologna e il giornale. Dunque col giornale si va appunto a queste spese del Vaticano che sono uno scandalo, riprese anche dal Fatto Quotidiano a pagina 6. Vuoi dar la mano al Papa? Devi pagare 250.000 euro. Bambin Gesù, incredibile brochure per l'ospedale pontificio propone alle aziende cene e udienza papale. Poca adesione, l'offerta allora viene annullata. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, a The Dry. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te, a Detroit. Lola, ho fatto le pazzie. Spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi a Detroit. Appena riesco a mandar giù, la gente guarda e ride, ma non piange insieme a me, per te, Lola, a Detroit. Lola a Detroit, cantava così il mitico Fred Bongusto con spaghetti e pollo in salatina. Noi riprendiamo la lettura delle pagine alle 10:17 minuti prima, partendo dall'America e con Bernie Sanders che è stato operato al cuore e interrompe la sua campagna per le elezioni presidenziali USA del 2020. È uno dei candidati democratici, il senatore Vernon Bernie Sanders, 78 anni, è stato costretto a interrompere la sua campagna elettorale in seguito a un malore durante un comizio. Sanders è stato poi operato al cuore, dove gli si sono stati inseriti gli stent per l'occlusione di un'arteria. E ancora dall'estero, la notizia che prendiamo dal Sole 24 Ore è di una nuova proposta di Boris Johnson per la Brexit, evitando il no deal, quindi nessuna regola. E questa è probabilmente l'ultima, visto che si sta avvicinando a grandi passi la data del 31 ottobre e si potrebbe andare anche a una nuova sospensione della Camera dei Comuni, del Parlamento inglese. E questa proposta essenzialmente vuole rimuovere il backstop. E il premier britannico chiede che l'Irlanda del Nord esca insieme al resto del Regno Unito dall'unione doganale, mantenendo però un allineamento regolamentare con l'Irlanda e con l'Unione Europea per la manifattura e l'agroalimentare. In questo modo i controlli fitosanitari al confine sensibile dell'isola dovrebbero essere praticamente azzerati, spostandosi però inevitabilmente tra l'Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito. Resterebbero quelli doganali, che però Johnson vuole decentrare o affidare a una nuova tecnologia. Quando durerà l'allineamento? Si pensa almeno a 4 anni. E il piano di sostegno degli unionisti del DUP dell'Irlanda del Nord è per sostenere questo piano, appunto, su questa Brexit, evitando il no deal. Ancora abbiamo notizie che arrivano da Hong Kong, nella scuola dove frequentava Tony, questo studente ferito dal poliziotto, un college, lo studente ferito è un centro di eccellenza, la polizia ci difenda, dicono gli studenti, anziché spararci. E ancora c'è un commento nelle pagine centrali di Repubblica a cura di Jan Baruma, che ci parla appunto di questa questione. Xi Jinping va a lezione da Mao. Il primo ottobre del 49, quando il presidente Mao Zedong si affacciò a piazza Tiananmen per proclamare la fondazione di Repubblica Popolare Cinese, milioni di patrioti esultarono. L'annuncio fu accolto con gioia anche da molti cinesi che, pur non essendo comunisti, erano felici del fatto che il paese, per anni umiliato dalle potenze straniere, vittima della violenta occupazione giapponese e segnato da una sanguinosa guerra civile, si fosse unificato. E il motivo per cui il governo, conclude questo articolo parlando appunto di Hong Kong, tenta strenuamente di schiacciare le organizzazioni cinesi che operano in autonomia, sottraendosi al controllo esercitato dal partito, è che i dogmi che fanno concorrenza all'ortodossia dello Stato sono considerati per definizione sovversivi. In Cina le rivoluzioni sono nate spesso come culti religiosi. È un problema che Xi Jinping conosce bene ed è per questo che sta tentando di rafforzare il controllo del partito sull'ideologia e di riproporre il pensiero maoista, mentre nelle università e tra i mass media e su internet cerca di mettere a tacere il pensiero dei dissidenti. Xi Jinping però non è Mao, chiude questo corsivo appunto Jan Baruma, e non è possibile il carisma che potrebbe fare di lui un moderno imperatore. Anche il giornale torna sulla Brexit, che sarà l'altra mazzata sull'economia anche italiana, oltre che europea. L'ultimatum di Johnson all'Unione Europea, il mio nuovo piano o no deal, Enrico Orsini dal giornale, e che peraltro con Davide Zamberlan commenta: Boris carica sull'Europa la responsabilità dei flop. Sempre in Inghilterra c'è questo scandalo a livello di Sun, Mirror o quant'altro. Meghan vittima come mia madre, DDD, Harry fa causa al tabloid, non resterò zitto. E infatti anche dal giornale al Corriere, il ruggito di Harry, una pagina intera, se muoio un'autobomba 40 a Baghdad, è un trafiletto su il ruggito di Harry, una pagina intera. Dopo mia madre distruggono Meghan, e farà causa al tabloid, bullismo mediatico. Beh, quella sera, oltre che tabloid, forse un bicchierone di troppo ha tradito le DD. Ma sui bicchierini si parla parlando della Russia. Vodka Dio, altra paginone del Corriere con Fabrizio Dragusei. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Russia il consumo di alcol è crollato e chi beve, beve vino o birra, complice una sfilza di divieti, perché la nuova classe media considera la bevanda nazionale volgare e poco la moda. Ma c'è l'ex direttore della sanità russo, Gennady Ostrichenko, che dice attenzione a queste indagini ufficiali, perché racconta: sarei cauto, spopola la produzione del fai da te, cioè uno se la fa in casa, e quindi con l'alcolismo il tasso alcolico a 1000. A Parigi il corteo a lutto dei poliziotti, basta suicidi. Cosa succede? Ieri 25.000 poliziotti sono scesi in piazza dalla Bastiglia Republique, pensando a quei 52 colleghi che si sono tolti la vita da gennaio ad oggi con l'arma di servizio, esasperati per la pressione, per le campagne di odio, per i carichi di lavoro e la scarsità di mezzi. Quindi i gilet gialli evidentemente stanno creando una faglia di dolore. E infine vengo nella pagina del Fatto Quotidiano e all'Israele. Netanyahu, niente governo e niente immunità. Quindi Netanyahu è molto legato al che si faccia una coalizione, che lui diventi ministro, altrimenti ciccia, andrà davanti ai magistrati. Nel giorno dell'inizio dei 3 processi a suo carico, Bibi non trova l'accordo con Gantz. Le accuse, il premier rischia un indulto 13 anni per frode, violazione di fiducia e anche corruzione. Sì, passiamo ora alla cronaca locale, siamo addirittura d'arrivo con questa rassegna stampa, prendiamo la notizia dalle pagine locali di Repubblica e partiamo con i nodi alla sanità e alle nuove norme. E dai servizi sociali e dal CERT c'è un nuovo allarme, l'allarme droghe, cresce l'emergenza e si tagliano le risorse appunto per questi importanti servizi.